E dunque, se è vero che, per esempio, si parla o si parlava molto nel passato di una genitorialità ed una paternità spirituale, dal punto di vista della formazione della propria anima, è anche vero che l'ambito comune, direi abbastanza naturale, ma non soltanto sotto il profilo materiale di realizzazione dell'essere genitore, è quello che trova un suo fondamento specifico nella naturale discendenza biologica, cioè nel dato biologico della discendenza. Perché questo dato biologico della discendenza è centrale? Perché oggi questo dato è messo fortemente in discussione, il che poi determina una messa in discussione del ruolo genitoriale, della funzione formativa della famiglia, e in questo contesto ciò che è messo maggiormente in discussione è proprio il ruolo del padre. Perché? Perché in fondo la madre, vuol dire, la sua componente naturale ce l'ha, perché il dato biologico, come dire, diciamo, è il suo, no? Cioè è la madre che porta avanti la gravidanza, è la madre nel cui utero si sviluppa e si instaura la prima relazione, poi questo, insomma, ce ne parlerà la dottoressa Notar Bartolo. Mentre da questo punto di vista, dico, noi uomini, io e il mio amico qui presente, scontiamo questa difficoltà, cioè che apparentemente è un fatto banale, ma per noi è un fatto difficile. Perché? Perché la prospettiva è totalmente altra. Ora dico, senza, diciamo, giungere, no, a quella famosa affermazione del libro che molti di voi conosceranno, gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, però è evidente che strutturalmente, dico, al di là della diversità sessuale, c'è un problema di diversità mentale, per cui poi nel tempo ci si rende conto, nel senso buono, che la moglie non è che lo fa apposta, è così. Dice, no, tu lo fai apposta. Dice, no, io sono così. Ma l'uomo non ci crede, perché parte dall'idea che la moglie glielo fa appositamente. Dice, vedi, tu me lo fai apposta perché sai che questa cosa mi infastidisce e me lo fai apposta, sei proprio una caina. E da lì, insomma, comincia tutto un discorso senza fine. E invece è così, cioè nel momento in cui noi non ci rendiamo conto della differenza, cioè se non diamo come dato di partenza la diversità strutturale, che è strutturale fisica ma anche strutturale concettuale, evidentemente stiamo partendo male, perché tutto quello che verrà dopo sarà frutto di un'erronea interpretazione del dato di partenza. Quindi è proprio quello che noi un po' chiamiamo tecnicamente un'inversione metodologica, cioè abbiamo sbagliato il metodo di approccio al tipo di problema. E allora perché il dato biologico della discendenza è fondamentale e questo già rappresenta per noi uomini una difficoltà da superare? Perché se la discendenza è, come dire, una esperienza concreta, no, della prosecuzione della specie al di là della propria vita individuale, evidentemente è naturale vedere nel figlio la proiezione di se stessi, perché il dato biologico della discendenza poi si traduce fattualmente in un percorso di sviluppo che già il genitore immagina nella sua testa prima ancora che il figlio sia nato. No, tipiche le espressioni, non so, quando a me una volta capitò, diciamo, adesso siccome un po' che non abbiamo figli, ma dico, è un fatto, sì, c'era il circolo delle donne che avevano la pancia, no? No, sempre con la stessa persona, per carità. E si discuteva, diciamo, che farà da grande. A me sembrano delle cose abbastanza strane, no? Cioè che alcune persone, diciamo alcune donne con il pancione, discutessero già tra di loro che cosa poteva fare il figlio o la figlia da grande. Mi sembrava un mondo un po' strano. Poi ho cominciato a capire che effettivamente questo era abbastanza naturale, ma perché faceva parte di una dimensione in cui alla relazione fisica del rapporto si univa anche una proiezione mentale, che per la donna, come dire, è naturale, non è che è più facile, è per me più, è naturale, perché per lei c'è questo fatto e per me non c'è, perché strutturalmente non c'è. Poi, come dire, oggi si dice che si potrà ottenere, e allora ricordo un intervento dell'allora ministro della salute qualche anno fa che diceva, vabbè, questo è un momento di passaggio, poi ci sarà un momento in cui il figlio si farà da solo, cioè si costruiranno delle tecniche per cui ognuno si farà il figlio da solo, senza bisogno dell'altro partner, moglie, marito, coniuge, sesso maschile, sesso femminile. Ma siamo molto vicini a questa prospettiva, cioè ci siamo già arrivati. Il discorso era 6 anni fa, ma siccome ogni 5 anni, ci spiegava oggi la professoressa Binetti, cambia il mondo, già, insomma, questa prospettiva è vicina a noi. se questo discorso legato alla discendenza biologica, diciamo, c'ha un suo fondamento naturale incontrovertibile, perché è così, questo è un fatto oggettivo per il momento incontrovertibile, diciamo così, anche questo deve essere correlato proprio col profilo che prima ho provato a mettere in evidenza, cioè la circostanza che la diversità sessuale della coppia si inserisca all'interno di un modello progettuale che oggi di mattina ci è stato descritto, secondo il titolo dell'intervento, uno con una per sempre. E attenzione, il per sempre, ora sì, è giusto che, insomma, va bene per i coniugi, ma è di fondamentale importanza per i figli. È centrale questo discorso per i figli, perché i figli scommettono il proprio futuro sulla base della scommessa dei propri genitori. Questo è, come dire, aritmetico, è matematico, per la semplice ragione che loro vivono un'esperienza che si nutre del loro ambito di provenienza. E anche questo è un fatto assolutamente naturale, cioè non è un fatto per il quale servono spiegazioni scientifiche di alto livello, no? Cioè è un fatto che si dà da sé. E allora, se si perde la scommessa iniziale, sarà più difficile fare un'altra scommessa, perché per primo il figlio non si scommetterà. O se si scommetterà con tutta una serie di riserve. E poi le riserve a loro volta produrranno, come dire, altri risultati non sempre del tutto favorevoli. E allora, da questo punto di vista, i due aspetti, quello della filiazione come discendenza biologica e quello della coniugalità e genitorialità, direi che sono elementi di un sistema complesso e articolato come quello familiare, che però si presenta, e anche questo è un dato che in mattinata è venuto fuori, con tratti di relazione biunivoca, nel senso che il nucleo familiare si caratterizza per quelle interrelazioni che si determinano all'interno ma all'esterno. E anche qui la dinamica familiare interna si traduce sempre all'esterno, perché anche qui i figli sono il nostro veicolo esterno. No, secondo alcuni sono la testa di ponte, ma anche l'ariete molte volte per smuovere situazioni che a noi sembrano strane. Vi faccio un esempio banale. La maggior parte, ultima e recente, delle mie conoscenze si realizza per il tramite dei miei figli. Prima domanda del figlio piccolo: papà, ma perché tu non sei amico dei genitori dei miei compagnetti? Ma sai, io non li vedo ogni tanto. Sì, tu no, tu li vedi, ma non li cerchi, perché tu li vedi all'uscita della scuola. Perché non ti fermi a parlare con loro? Sono le due, io alle 2:30 abbiamo, cioè, attenzione, perché questa dinamica nei figli è evidente, no? Ed è evidente nel momento in cui si costruiscono un loro mondo, che è un mondo reale, non è il mondo della favola, dice, ma da dove ti è venuto? Perché? Perché loro sperimentano una realtà di questo tipo. E allora anche qui per noi il figlio è il ponte verso l'esterno, e soprattutto sembrerà strano o paradossale, vedete già mia moglie si sta allontanando, questo è un segno molto negativo, ah no, si sta avvicinando, se ne sta andando, basta, se ne sta andando, vabbè, così mi sento più libero, vi racconto un po' di cose che in sua assenza non vi potevo raccontare. Allora, vi dicevo, da questo punto di vista, secondo me, questa relazione esterna e interna che si coniuga tra la famiglia e la società è un fatto importante. E direi, da questo punto di vista, vi leggo un passaggio di un autore molto bravo, Litz, secondo il quale, e sembrano parole che risalgono all'era, diciamo, di chissà quanti anni, mentre sono state scritte soltanto 30 anni fa, alla famiglia è stato affidato da ogni società il compito di provvedere ai bisogni biologici del bambino e simultaneamente di, lui utilizza un termine che oggi è un po' pesante, indottrinare, no? Perché sembra una forma coercitiva, il nuovo acquisto della società, nutrire e acculturare il bambino e strutturare lo sviluppo della sua personalità. E però anche qui, diciamo, l'idea che viene trasmessa è che questo ruolo spetta a noi genitori, cioè non è un ruolo che noi possiamo delegare ed affidare ad altri, anche perché in una certa misura, e questo fa un po' il paio con quello che si diceva stamattina, i figli che noi mettiamo al mondo sono un dono che noi rivolgiamo alla società. Cioè noi stiamo investendo le nostre energie, no, i migliori anni della nostra vita, come si diceva un tempo, per creare un valore aggiunto alla società. Questo è indubbio, ecco perché poi devono trovare fondamento le politiche a sostegno della famiglia. Non è perché dice ah, mi fa simpatia questo oppure mi fa simpatia un altro, no. Perché questo è un ruolo insostituibile. Perché altrimenti, come dire, una società che non si preoccupa di ciò è terminata. Ma è terminata perché ha innescato un processo di autodistruzione, per cui noi oggi diciamo nel 2058 non ci saranno più italiani, secondo questo processo. E perché non ci sono figli di italiani. Dico, per carità, c'è il multiculturalismo, l'interculturalismo, va bene tutto, però questo significa la perdita di un nucleo di valori di cui la nostra società è portatrice.